Efecto Mundo. Los sindicatos acaban de comunicar la noticia a los trabajadores que había aquí concentrados en la fábbrica de Moncada y Reixac, que están indignados. Eccoci qua, Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno, insomma questa notizia della crisi dell'auto adesso ci dà un'ulteriore conferma in Spagna. La voce che abbiamo sentito era di un'inviata davanti alla fabbrica della Nissan vicino a Barcellona, che forse avete sentito anche sullo sfondo c'erano questi colpi, perché è stata una protesta molto indignados, diceva la giornalista. Il Financial Times titola Pain in Spain, cioè dolore in Spagna. Ci sono 3.000 persone che perderanno il lavoro perché la fabbrica verrà chiusa, ma c'è anche tutto l'indotto calcolato da Financial Times e da tutti i giornali spagnoli che hanno in prima pagina questa foto della colonna sulla quale sta scritto Nissan, circondata dal fumo che veniva ieri da questi disordini. Quindi 3.000 persone perderanno subito il lavoro e altre 25.000 sono quelle dell'indotto, per un totale di 500 imprese. ABC è il quotidiano più duro su questo, perché in gennaio, ma come sappiamo in gennaio non c'era ancora la pandemia che ha aggravato la crisi dell'industria dell'auto e in particolare di quello stabilimento spagnolo del costruttore giapponese, in gennaio aveva detto nessun dipendente della Nissan perderà il lavoro in Spagna, e purtroppo non è andata così. E oggi c'è l'annuncio invece gemello della Renault, che taglia 15.000 l'alleato, insomma, di Nissan, che taglia 15.000 posti. Non so se le due notizie sono, insomma, sicuramente collegate tra di loro. Non so se i giornali francesi poi eventualmente, vediamo, avranno echi di questa, che però appunto è solo una notizia di oggi, anche se poi il piano di risparmi per tutte le case automobilistiche era già stato annunciato mesi fa, prima della crisi Covid. Che altro, Giulia, sui titoli principali? Ma oggi, se vuoi, usiamo Financial Times per portarci negli Stati Uniti. Il titolo di prima pagina, oltre al fatto che la Gran Bretagna ha già annunciato che chi ha un passaporto di Hong Kong potrà avere agevolmente il permesso di andare nel Regno Unito, è quasi un'anticamera della cittadinanza britannica, vale per 300.000 residenti di Hong Kong. Naturalmente sappiamo che fino al 1997 Hong Kong era un protettorato britannico. Quindi, a parte questo, che naturalmente dipende da quello che sta succedendo a Hong Kong, l'altro titolo è Zuckerberg e Jack Dorsey, cioè il fondatore di Facebook, il fondatore di Twitter, lock horns, cioè incrociano le corna, che è un modo inglese di dire che si scontrano, si sfidano a duello per la reazione, per quello che Trump sta, anzi ha già fatto, come ritorsione alla mossa di Twitter. Ne avrete sicuramente parlato, ne hanno parlato i giornali. Trump preferisce da sempre Twitter, twitta decine di volte al giorno, anche centinaia di volte al giorno, spesso sono da informazioni imprecise. A un certo punto Twitter, diciamo, o forse Jack Dorsey stesso, fondatore e attuale amministratore legato, ne ha avuto abbastanza e ha fatto scrivere quattro parole consigliando semplicemente di informarsi sui temi che Trump aveva toccato. Non l'avesse mai fatto. Trump ha già firmato un executive order che toglie parte dello scudo legale a tutti i social network, da qui l'arrabbiatura di Facebook, per eventuali cause che possono essere fatte, perché gli stessi social network, e qui sta veramente il paradosso, pubblicano notizie false o che, insomma, prima avevano uno scudo legale, la responsabilità era di chi twittava o postava su Facebook, e adesso invece potrebbero risponderne anche loro, e verrebbe da dire allora anche delle bugie che Trump dice dovrebbe rispondere anche lui. Quindi, insomma, è una tipica mossa, se vuoi anche così, una reazione emotiva di Trump, che è stata molto criticata, soprattutto dal Washington Post, ma è in prima pagina su tutti i giornali, perché il presidente ha questo potere, cioè di una sorta di decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, se vogliamo far capire, insomma, è una cosa, è un provvedimento che ha effetto immediato. Quindi adesso si attendono le reazioni non soltanto di Zuckerberg e Dorsey, ma anche di altri di altre piattaforme e di altri social network. Senti Giulia, sempre negli Stati Uniti, la situazione a Minneapolis come sta andando? Sì, questo episodio di George Floyd è, come abbiamo detto nei giorni scorsi, è proprio un fiammifero che incendia dei pagliai che sono sempre lì. Io pensavo oggi tanti dei nostri ascoltatori avranno visto il film The Green Book, che era ambientato negli anni 60 e documenta un viaggio di un bianco verso il sud con un artista nero, e a quell'epoca, parliamo degli anni 60, in tantissimi stati del sud degli Stati Uniti i neri non potevano andare negli alberghi che erano invece riservati ai bianchi, e sono passati pochi anni, cioè la situazione delle tensioni con le comunità afroamericane è latente e sempre pronta a venire fuori. In questo caso non è, le proteste ormai non sono soltanto più a Minneapolis, dove il sindaco ha chiesto l'aiuto della Guardia Nazionale e stanno arrivando sul posto 500 appunto rappresentanti della Guardia Nazionale, una sorta di polizia federale per cercare di riportare l'ordine in città. Ma le proteste si stanno allargando a tutto lo stato del Minnesota e anche ad altri stati, soprattutto alla California. Come abbiamo detto ieri, e lo sottolineano molti giornali, questo arriva in un momento di grandissima tensione sociale, perché la comunità afroamericana è stata più colpita dal Covid, sono circa il 14% della popolazione degli Stati Uniti, ma il virus li ha colpiti in proporzioni quasi triple rispetto ai bianchi o ad altre comunità come i latinos o le comunità asiatiche, e poi comunque ci sono anche conseguenze economiche più pesanti per la comunità afroamericana. In generale fanno lavori più umili, che sono stati i primi a saltare. E a proposito di questo, giornali americani naturalmente parlano anche dei dati sui sussidi di disoccupazione, le nuove richieste che come sempre arrivano di giovedì. Ieri sono state solo 2,1 milioni, la settimana precedente erano 2,4, ma ormai un americano su quattro, questo lo calcola il Wall Street Journal, ha chiesto un sussidio di disoccupazione. Di nuovo, ogni settimana si batte un record se si cerca un confronto con il passato, che ormai non c'è più. Giulia, noi abbiamo parlato poco fa, un documento di 60 pagine sulla riapertura delle scuole a settembre, con diversi punti di domanda. In Francia, se ho capito bene, stanno riaprendo i licei dopo che sono già riaperte le scuole per i più piccoli. Sì, tanto che Le Figaro dice l'epidemia arretra, recule, e la libertà torna. Questa libertà vuol dire tante cose, vuol dire anche la riapertura. Ci avranno delle un virus scuole. Diverso dal nostro, forse, chissà. Veramente credo che Alessio, forse tra una decina d'anni potremo cercare di capire cosa veramente sia successo, a bocce fermissime, finché le bocce, che in questo caso sono il virus, si muove, sì. Non so, veramente. No, ma poi per l'amor del cielo, può darsi che sbaglino loro, che poi tornino indietro, può darsi che in Germania abbiano commesso delle avventatezze. Per ora sta andando tutto bene, è un mese che sono rientrati a scuola e hanno avuto 200.000 casi, quasi 20.000 morti, perché sembra che in Germania il virus non ci sia stato, o anche in Francia, no? Dice, è facile lì, in Italia invece, ma siamo paesi che hanno avuto una sorte simile, da noi più grave in Lombardia, sul resto del territorio per esempio no. Comunque, scusami, no, che su questa questione della riapertura, eventualmente della chiusura, c'è oggi proprio un servizio sul sito di Le Figaro che dice, teniamo presente che insomma in altri paesi dove sono già avanti con le riaperture, la Corea del Sud, Taiwan, delle scuole intendo, sono anche molto attenti a richiudere le singole scuole. Dove ci siano dei focolai. E torniamo sempre alla questione del ogni volta che si riapre qualche cosa deve essere aumentata l'attenzione pochi secondi abbiamo ancora, riparte anche il calcio inglese? riparte il calcio inglese, i francesi, tra l'altro i quotidiani francesi sportivi oggi si chiedono e perché noi no? Noi Perché no, sapete loro che invece sì. il campionato francese è stato dichiarato finito, Finito. invece riparte la Premier League e ovviamente con stadi vuoti e questo fake cheering, cioè anche lì troveranno dei modi come in Corea del Sud hanno messo le sagome di cartone, anche nel Regno Unito magari manderanno dei suoni, eccetera, cioè per non far proprio sentire l'eco dei loro calci, dei loro movimenti ai giocatori, però la Premier League riapre, quindi sono tutti molto contenti i fan del calcio in Gran Bretagna, appunto. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiamo la settimana prossima a partire da mercoledì, lunedì e martedì non ci siamo, c'è il ponte il 2 giugno, ponte anche per noi. Grazie, Valeria Bernardi in regia, Laura Faggini in assistenza, Alessandro Schirano in redazione. Ciao da Alessio Maurizi.